Benvenuti a tutti nel salotto della Tinca. Stasera parleremo di sessualizzazione e vi proporrò sul tema una conversazione avvenuta settimana scorsa durante la nostra diretta Instagram della domenica sera, Arraparsi per non impazzire, che condividiamo con Claudia Sca. Giornalista, attivista, esibizionista, amica. Il concetto di sessualizzazione ci insegna che essere percepito come un richiamo sessuale è di per sé l'attribuzione di uno status avvilente e oggettificante. Idea che la sessualizzazione di qualcosa di non sessuale, un'idea mutuata dalla biologia, si possa applicare anche alle persone, si basa su il concetto non scientifico che le persone siano asessuate e quindi sessualizzabili. Ciao a tutti, noi siamo Rosario Gagliardo, questa è Impazzire per Arraparsi, volevo dire Arraparsi per non impazzire, appuntamento della domenica, da qualche tempo della domenica sera, è un progetto che è partito con la quarantena. Noi chiacchieriamo con Claudia Sca di argomenti inerenti alla sessualità a vanvera, volevo dire a tutto tondo. Ciao! Eccoci! Ciao. Siamo cariche, oggi parliamo di sessualizzazione, che non sappiamo neanche noi che cazzo è. Io sono carica, un ce po'. Ce lo siamo domandato. Sono un po' sessualizzata, però carica. Sei stato sessualizzato, ti ho sessualizzato io. Allora, dati voi. Allora, io comunque prima della diretta ho detto fammi cercare sessualizzazione sul dizionario, perché almeno diamo una definizione. Cioè, Treccani parla di sessualizzazione in termini che non c'entrano niente con quello che intendiamo noi. Cioè, sono termini di natura biologica, non so, cioè gona, di roba. Cioè, non esiste. Quella che intendiamo noi, cioè la sessualizzazione, il concetto come si usa, corpi sessualizzati, cioè non esiste, no? Non c'è mai, non è che non esiste. Credo che sia un concetto molto recente, ma più di ambito psicologico. La domanda è, stiamo parlando di un termine usato in ambito psicologico? Io ho fatto l'indagine sul termine usato in ambito psicologico, esiste sia in ambito biologico che psicologico, e in entrambi i casi non è il senso con cui credo tu lo stessi intendendo. Se vuoi faccio un piccolo riassunto dei due casi, quello biologico. Ma io accendo la luce, tu è quello psicologico, che è il termine che deriva da lì. La parola sessualizzazione, anche se voi tutti l'avete sentita usare in contesti diciamo diversi, nasce come parola che indica una parte, per esempio, di un animale che viene adoperata a scopo sessuale. Cioè praticamente sono delle parti degli animali che si sessualizzano, quindi in qualche modo si adattano a un uso sessuale. E vabbè, questa è biologia. E poi abbiamo l'uso psicologico, che è già più simile, diciamo, a quello di cui forse tu, Claudia, pensavi che di quello di cui noi parleremo poi alla fine. Sì, anche perché io di biologia non ho messo un cazzo, di psicologia ancora meno, ma allora questo ve lo spiego io, ragazzi, è semplicissimo. Noi poi viaggiamo sul semplice, perché in teoria dovremmo stare qua ad arraparci, però purtroppo abbiamo scoperto che invece non potendoti tirare fuori le tette, parliamo di cose sexy, e dato che siamo perverse, malate mentali, ci facciamo le seghe mentali invece di dire porcate. Ebbene, così. E nella nostra sega mentale c'è questa sessualizzazione. Questa sessualizzazione, dal punto di vista psicologico, è un meccanismo di difesa. Quindi cosa faccio io? Quando interagisco con un elemento che in qualche modo mi fa sentire sotto minaccia, che può essere una situazione, una persona, un concetto, un'azione, anche un'azione ricorrente, io la eroticizzo dentro di me. Cioè inizio a trasformarla, come la sento, come arrapante, e questo mi aiuta a compensare, cioè a passare anche da vittima forse anche un po' più a parte attiva, perché se io sono arrapata di ciò che mi sta minacciando non sono solo annichilita, ma posso magari riuscire ad avere delle alchimie interiori. Comunque vabbè, queste sono forse anche più mie teorie. Questo qua è l'articolo che mi avevi girato ieri, no? Mi pare. Sì. Forse il primo che ti ho ed è un meccanismo di difesa comunque. E cosa fa? Vediamo quindi in che maniera è simile invece a quello di cui noi stavamo pensando di parlare, perché sessualizzazione invece tu l'avevi trovato, lo troviamo noi di solito in altri contesti, quindi è forse un termine che è stato adattato a un nuovo concetto, a una nuova idea, che col secondo articolo che ti ho mandato invece viene utilizzato in quel modo là, ossia sessualizzazione inteso come diciamo viene più forse dalla parola ipersessualizzazione. Quindi l'ipersessualizzazione di un'immagine usata a scopo pubblicitario, perché poi partiva da lì, c'è stata a un certo punto una critica del fatto che nell'immaginario dell'intrattenimento e della pubblicità venissero utilizzati molti elementi erotici e forzatamente erotizzati, proprio per attivare nel pubblico delle reazioni di arrapamento che poi venivano indirizzate poi, cioè, o a seguire la trama del film, ma quello va bene, nessuno se la prende, o a comprare il prodotto. Quindi c'è questa sessualizzazione magari di per esempio, si è usato molto parlando della sessualizzazione delle bambine, no? Nell'immaginario delle bambine vestite da donnine, magari nella moda, oppure la sessualizzazione soprattutto dei giovani. Io ho trovato molta letteratura riguardo soprattutto i giovani, quindi sì, diciamo che sono giovani e le donne, noi in particolare, cioè questa donne giovani che sono i fatti deboli, quelli da cui poi poi c'è sempre i fatti di cronaca, no? Quelle entità che nel nostro circuito sociale arrapano e poi incassano anche mazzate, guarda caso. E infatti la sessualizzazione è uno di quei tanti meccanismi di oggettificazione che viene che la nostra società applica su chi viene desiderato. Allora, io mi sono fatta gli appunti, ci avevo già le mie idee sulla sessualizzazione, perché è una cosa che io seguo da un bel po' di tempo, perché la prima volta che ho iniziato a sentir parlare di sessualizzazione un po' di anni fa, proprio quando c'erano queste critiche, ho detto: ma che cazzo stanno dicendo? La sessualizzazione è una cosa che avviene dentro di me, non è una cosa che io faccio a un altro. Cioè, questa è una roba concettuale che secondo me non è però secondaria. Cioè, la filosofia serve a capire, no? La logica serve a capire, la matematica serve a capire, l'italiano serve a capire. Se io prendo una parola, la utilizzo in un modo completamente diverso, devo capire cosa sto dicendo. Sessualizzare è un'azione che a livello psicologico avviene dentro di me. Se io sessualizzo te, quindi faccio un'azione transitiva su un soggetto esterno a me, io devo dimostrare che questa cosa esiste. Non posso usare un termine della psicologia perché tutti lo sentono, che gli è familiare e dicono: ah, è vero, c'è sulla Treccani. Sulla Treccani infatti c'è scritto, perché sulla Treccani c'è sessualizzazione, c'è anche la versione nuovo significato, e loro stanno attenti, l'hanno riportato infatti in un modo diverso da come viene l'enciclopedia, perché io ho guardato nella sezione dizionario non c'era, c'è ancora solo quella biologica, diciamo così, nel web. Nell'enciclopedia hanno riportato sulla carta o nel web? No, io web. Anch'io. Allora, aspetta, te la dico subito. Tre cani. Indurre ad avvertire gli istinti sessuali. Quindi la Treccani cosa fa? Essendo che forse quelli che l'hanno scritta si sono accorti che stava avvenendo, come dire, un neologismo un po' poco giustificato, hanno parlato di indurre ad avvertire gli istinti sessuali. Quindi non è che tu sei asessuato, arrivo io e ti sessualizzo, perché sono istinti, la parte di sessualità è indurre ad avvertire, cioè della serie sentili, cioè ti induco a sentirli, ti metto in ascolto, cioè ti induco a sentire quello che per te è istintuale, mentre invece se tu leggi gli altri l'altro articolo che ti ho mandato, che è un po' esemplare di tutto un filone, è come se l'entità sessualizzata non abbia proprio, cioè come non viene menzionato il discorso del sollecitare un istinto, ma come se l'altro viene sessualizzato, cioè io ti rendo oggetto sessuale, ti sessualizzo dall'esterno. Ti faccio un esempio. Aspetta, ricordiamo, infatti molto spesso vengono o messi affiancati o addirittura sovrapposti, nonostante siano parole con significati, quindi la semantica diversa, oggettificazione, perché anche qui parliamo sempre, siamo sul neologismo, perché in italiano oggettivare vuol dire rendere oggettivo. E infatti oggettificazione viene dall'inglese, un concetto che esiste nel panorama culturale, diciamo, anglosassone, che deriva da objectification, ossia oggettificare. Per dire, ti metto in posizione di tavolino, chiuso come tavolino, quella è un'oggettificazione, ossia io ti trasformo, ti faccio questo appunto, ti tratto come uno transizione, traslitterazione, non so come definirla, cioè ti cambio da persona, diciamo così, a oggetto, che sia consensuale o meno, adesso non siamo qua a giudicarlo, però appunto una cosa che nella lingua italiana, quindi probabilmente anche nella nostra cultura, sono tutte cose che stanno venendo recentemente, o comunque le stiamo studiando anche linguisticamente recentemente, e appunto spesso vengono affiancate o sovrapposte quando in realtà sono diverse, cioè la cosiddetta oggettificazione, la sessualizzazione, pur essendo magari volendo complementari, come ci dicevamo ieri quando ci siamo sentite, non è detto che siano la stessa cosa, anzi, anche lì poi si apre proprio un portone. Niente, volevo dire questa cosa. No, l'analogia tra sessualizzazione e oggettificazione è molto interessante, Claudia. Sì, anche è molto, molto, molto azzeccata, perché poi l'accusa di sessualizzazione sta molto nell'oggettificazione a carattere chiaramente sessuale, anche perché oramai le oggettificazioni che noi ci facciamo a vicenda nella nostra società passano tutte sotto silenzio, ma di quella sessuale invece ci lamentiamo tutti. Quindi veniamo utilizzati e ci utilizziamo a vicenda come rotelle di un ingranaggio a cazzo proprio, però se ci fa arrapare ci godiamo pure, allora è una merda, solo se soffriamo va bene. Però io volevo aggiungere a questa analogia tra oggettificazione e sessualizzazione, che potremmo anche approfondire, il fatto che l'altra accusa che viene fatta è ridurre l'altro a personaggio, quindi che tutte queste accuse sono interessanti, bisogna vederle. Questa qua, aspetta, no, ridilla, questa è sempre riportata dalla Treccani o no? No, questa è la riportano, cioè terza cagna sono io. E la terza cagna dice che praticamente all'interno dell'immaginario sessuale, dell'oggettificazione, della sessualizzazione, c'è anche il fatto di ridurre la persona a personaggio. Per esempio, se noi vediamo le accuse che vengono fatte alla riduzione dell'immagine, dell'immaginario sulla donna, a una serie di stereotipi oggettificati, quindi finalizzati all'arrappamento maschile, una delle accuse che viene sempre fatta è che si perde di vista la persona totalmente, e viene rappresentato e oggettificato, quindi viene espresso un personaggio, quindi qualcosa che serve nei ruoli, nell'immaginario, a una funzione. Quindi non c'è più veramente la persona, ma c'è il personaggio. e si collega quindi alla sessualizzazione e all'oggettificazione dell'altro, che sono le cose che hanno fatto più paura, che hanno fatto molta paura quando è incominciato, come dire, a diventare la pubblicità soprattutto molto sfacciata, questo è successo un po' di anni fa, a essere sempre meno sublimata, perché poi l'eros nella pubblicità ci è stato imprestato, ragazzi, in tutta l'arte e la comunità. Diciamo che il boom effettivo è stato dagli anni 80 in poi. Esatto. Molto. Cioè in Italia noi abbiamo avuto l'esempio anche della TV, cioè tutto il filone della TV berlusconiana, quindi Drive-In, tutti quei programmi, no? Colpo Grosso, eccetera. Però anche all'estero in realtà credo che quello sia stato il periodo. Non so se è perché parallelamente nel mondo del porno, cioè il porno diventava in quel periodo un video, non so se ci possano essere delle connessioni, anche un porno più accessibile, e quindi forse si è pornificata la società già da quel periodo. Vorrei dire in realtà che se tu vai a vedere anche soprattutto solamente restando nell'ambito pubblicitario, quindi puro advertising, prima del ventennio, fino al 1920, il nudo era già molto usato, anche solamente, ovviamente, anche solo disegnato, ma era molto usato prima, insomma, del disastro del ventennio fascista. Quindi io credo che il nudo sia qualcosa che ha sempre bene o male, e quindi la sessualizzazione ha sempre bene o male attirato molto. C'è anche da dire che anch'io ho letto questi due articolini per sommi capi, perché erano una tortura da leggere, e uno era sicuramente un articolo problematico, cioè di una persona problematica. Allora, diciamo così. Abbiamo preso due esempi casuali, uno che parlava... Sono due articoli praticamente tirati a sorte, cioè presi dai primi che arrivano su Google. Sì. Quindi sono comunque, li consideriamo come una specie di carotaggio culturale. Sono lì i primi due, se scrivi sessualizzazione, significa che tante persone andranno e vedranno quello. Quindi diventano magicamente importanti, anche se sono due articoli orribili. Allora, la questione qual è? Soprattutto nel primo, noi abbiamo davanti una persona che ha una cultura sessuale miserabile, perché probabilmente ha avuto una educazione sessuale miserabile, e che parla di sessualizzazione, ma non sta parlando veramente di una sessualizzazione che è un disturbo, sta parlando semplicemente dell'avere o del sentire la propria desiderio, il proprio istinto sessuale, e dice: guarda caso, viene fatto perché quando sei sotto stress, poi dopo succede questo e questo, con la sessualizzazione ti sembra di stare meglio, che è uguale a dire quando stai morendo di sete, poi ti bevi un bicchiere d'acqua e ti sembra di stare meglio, ma non hai risolto il problema perché ancora il sole è alto, cioè, capisci? È una cagata, hai dei problemi. Sì, poi ha parlato di trauma, anche ha detto c'è il trauma, poi però vabbè, non è che sia sempre così, però intanto ti dice quella cosa legata al trauma, cioè che molto spesso questa cosa di sessualizzare ciò che apparentemente non ha niente di sessuale, per esempio, infatti lui parla dei traumi, cos'è, uno psicologo, lui mi sa. È uno psicologo. Quindi è quello un po' che dicevi tu prima, Mari, no? Parafrasandolo, cioè che prendo un evento traumatico, scioccante, lo sessualizzo, mi aiuta a elaborarlo, viverlo meglio, magari vivermelo per conto mio, lo elaboro. Ok, per carità, io non nego che non sia una pratica psicologica che esiste, no? Magari inconsciamente, però mi sembra un po' limite. Cioè, questa può essere una parte della narrazione, però... Comunque io invito tutti i nostri amici che ci ascoltano a utilizzare la sessualità e il desiderio sessuale quando si è sotto stress, quando si ha un trauma, quando non si sta bene, fa molto bene, rilascia endorfine, si sta meglio, distrae la mente e rilassa i muscoli. Perciò anche se trovate su Google queste robe cattoliche, l'altro è ancora più cattolico, per favore, il sesso, spesso la sessualità è una bellissima cosa che ci aiuta a staccare anche la spina da cose dolorose, stress di qualunque tipo, ed è un bene utilizzarla, non è un male. Non stiamo male perché se noi siamo stressati ce ne voglia di scopare perché siamo perversi. Questa cosa secondo me no, però non è bene. No, l'evento naturale, cioè cerchi quello che ti fa stare bene, no? Bonobo, come abbiamo già detto in una qualche puntata fa, i bonobo messi troppo sotto stress decidono di organizzare un'orgia. Una comunità di bonobo, quando è troppo sotto stress, è stato fatto questo famoso esperimento in cui veniva dato da mangiare a un solo bonobo una roba buona e gli altri devono mangiare delle robe orribili. La prima cosa che succede in qualunque comunità è incominciare a essere insofferente verso l'individuo che viene trattato meglio. Nella società dei bonobo, dopo poco tempo in cui c'è l'escalation dello stress e cercano tutti di prendersela con lui, le madri, le matriarche del gruppo decidono di scopare. Si mettono a scopare e tirano in mezzo gli altri. In questo modo lo stress sociale, non solamente personale, ma sociale, si allenta e loro riescono a superare difficoltà, tanto che poi nessuno mangia più quello ingiusto, capito? Quindi la sessualità è un dispositivo molto importante per gestire traumi e stress. Questo voglio dire, poi dopo ci sono casi come la sindrome di Stoccolma, chiaramente, che sono invece un'altra cosa, che pure quella però è un istinto di sopravvivenza, quindi anche qual è la sindrome di Stoccolma? Che uno ti chiude in una stanza, innamorarsi del proprio aguzzino, e tu a un certo punto gliela dai con gioia, non ti arrapi tutta. Sì, la sindrome di Stoccolma è quella di, cioè, che deriva da un rapimento di questa tipa che si era innamorata del proprio aguzzino, no? Capita, non è una, no, capita. Okay. Non la stavo confondendo con la sindrome di Stendhal, che non c'entra niente. No, ci stai, probabilmente ha salvato la vita anche a un sacco di gente, quindi è un istinto di tutto rispetto, non c'è niente di male ad avercelo, anzi viene spontaneo, e perché no? Beh, allora, noi però stavamo ragionando, secondo me, su come viene utilizzata la parola sessualizzazione e il concetto. Cioè, io almeno quello che a me mi ha colpito, perché la creazione di un termine, la trasposizione di un termine ci sta, perché se tu crei un concetto e quella parola lì la vuoi usare, va bene, ok. Però il concetto, che concetto è? Allora, sono andata a prendere qualche appunto. Però, tu ieri hai detto una cosa molto interessante quando chiacchieravamo per i fatti nostri, cercando di preparare la puntata. Sembra tutto improvvisato, ma non è tutto improvvisato. E tu hai detto una cosa, mi sembra un concetto molto pop, appunto creiamo parole nuove, canniamo anche un po', ma secondo me questo è anche molto tipico di una società che cambiano i dispositivi, i meccanismi, le interazioni, e quindi anche il linguaggio si deve un po' adattare. Quindi abbiamo questa parola usata con questa accezione pop, di sessualizzazione, non più intesa come meccanica di difesa, ma intesa come azione sull'altro. Quindi cosa succede? Io incontro A, incontra B. A è arrapato, B no. A guarda B e dice mi piace B, e lo sessualizza. Adesso dimmi come. Ti prego Claudia, dimmelo tu. Ma infatti è una cosa che io di recente mi sto, cioè, come appunto, come il tema dell'oggettificazione, cioè cosa vuol dire sessualizzare una persona? Una persona si sessualizza da sé. Allora, oppure magari vuol dire che tu colpevolmente sei attratto sessualmente da questa persona e la ingaggi sessualmente? Cioè, tipo A e B si incontrano, A è attratto da B e B la ingaggia sessualmente dentro di sé. Allora, se A guarda B, vai, fai tu, poi io dico. Io e te ci incontriamo, siamo d'accordo, dobbiamo prendere un caffè, no? Mm-hmm. Io ti vedo e mi viene una drizzella sconfinata e dico no. Ma Claudia, cazzo, ho capito il caffè, ma a cazzo quanto mi fai tirare l'uccello. In quel momento lì tu dici mi hai sessualizzato, che cazzo c'entra, stavamo bevendo un caffè. Ma infatti, cioè, è questa la cosa che mi mette in difficoltà, perché qua veramente si passa dall'attrazione, che è assolutamente legittima, che può essere non ricambiata, cioè A è attratto da B ma B non è attratto da A, e ah mio Dio, allora tu pensavi che non mi hai mandato messaggi, cioè nel senso non ti ho fatto intuire niente, ma tu ci hai provato, ma tu mi hai sentito. E allora? Non capisco, uno perché ci si può fraintendere, anzi la comunicazione ci insegna, cioè sia la verbale che la paraverbale che la non verbale, che è un tentativo per fraintendersi il meno possibile, ma fraintendersi ci si fraintende, facciamoci pace con questo concetto perché è così. Visto che la sessualizzazione, cioè, è difficile, cosa vuol dire sessualizzare? Innanzitutto, dicendo questo, vuol dire che noi abbiamo chiaro in testa che cos'è per noi il concetto di sessualità, cioè vuol dire e che non ce l'abbiamo. Ma allora vuol dire che è codificato in maniera universale e che è molto chiaro come codificato, perché no. E invece non è così. Perché è soggettivo. Allora, c'è, anche qui ci abbiamo. È soggettivo, ma non lo è. Non lo è, perché c'è l'interpretazione biologica, c'è l'interpretazione psicologica, quella filosofica, quella pop, anche qua ci sta. Ci sono molte interpretazioni su che cos'è sessuale. Io, per esempio, seguo la filosofia reichiana, che è, in realtà lui è anche scienziato, quindi non è una filosofia, che vede la sessualità come energia vitale, in realtà. Cioè, la sessualità non è altro che la manifestazione dell'energia vitale, la stessa che fa fiorire le piante a primavera, fa agitare i vermi nella terra, quell'energia lì, lui parla proprio di questa energia e fa l'eco un po' anche all'idea più orientale dell'esistenza, che è su intesa energetica, giusto caro? Vuoi integrare? Sì, integro. Dai, allora, integra, per quanto riguarda Reich, rimanendo nella parte medica e scientifica, è interessante secondo me, perché un altro aspetto della sessualizzazione, un altro significato della parola sessualizzazione è quella della sessualizzazione precoce, cioè dei ragazzini, dei bambini, delle persone, dei soggetti di tenera età che incominciano a sentirsi in qualche modo sessualizzate. Che è poi quella cosa per cui tu a un certo punto eri una bambina e domani invece ti metti il trucco, ti metti il rossetto, vuoi sembrare come quelle di Instagram. Aspetta, questa no, questa è la sessualizzazione pop. Aspetta, mi stai confondendo. No, allora, aspetta, però fammi finire di parlare. È la sessualizzazione pop. La sessualizzazione pop, la sessualizzazione, scusami. Ma io ho intervistato il mio papà, che è il suo lavoro. E dopo parli, faccio parlare io. Posso dire una cosa? No, ragazzi, per favore, qua è casa Vianello. Io non so. Cioè, tu non hai capito? Capito? Adesso io prendo e leggo il giornale come no, Raimondo. I piedi. Aspetta, aspetta, quello che stava dicendo Bastoni cos'era? Interessava a tutti, ma non a Regina. Allora, vai. Allora, vedi che mi sessualizzo. Non fanno vedere i piedi gratis. Allora, qua sono a pagamento. Questo è uno specchio per le allodole. Noi qua ci facciamo il partito di gente pagante. Che cazzo. Che barba, che noia, che barba. Esatto. come. Allora, diciamo, la sessualizzazione. Reich, per esempio, fa, come dire, pone la prima pubertà a cavallo tra i 3 e i 4 anni. Da prima pubertà. Freud all'inizio anche, dopo Reich non è potuto stare in Germania e in Austria quando c'era il regime nazista. Freud sì, perché ha cambiato molte idee, ok? Si è adeguato al nazismo Freud, Reich non se ne è adeguato e quindi ha continuato tranquillamente a dichiarare che i primi impulsi sessuali arrivano nei bambini a 3-4 anni, infatti i bambini a 3-4 anni e chi ha figli? Mi devo toccare. Toccano il pistolino. E anche allora, la patatina, fino, cioè, la patatina, come la chiamiamo. Allora, però si toccano tutto, anche le gengive. Fino si toccano, ma tutto, fin da subito, in realtà da quando sei nato, che hai questa cosa qua. Prima che sì. Fino a poco tempo così. Fa arrivava una persona specializzata col camice bianco che ha studiato e ti diceva che quella roba lì di toccarsi il pistolino non andava bene e ti metteva anche dei guanti speciali per non farlo. Quindi io, quando una persona che si autodefinisce psicanalista o psicologo mi viene a raccontare della ipersessualizzazione, la sessualizzazione precoce, io un po' ho paura che dica stronzate perché ha problemi lui. Perché la sua mamma l'ha torturato dicendo che non si fanno le seghette e gli dava le malattie nelle mani. Perciò e quindi io vorrei appunto, quando si parla di questi e anche altri argomenti legati alla sessualità e che hanno tutta una come facevamo notare prima, come facevi notare tu prima Claudia, hanno anche un alone di punitività della sessualità, perché c'è sempre quella roba lì che la sessualità è una roba sporca, appunto Claudia, cazzo, a un certo punto appunto, io non te lo posso dire che mi fai tirare l'uccello, perché è un insulto, è un problema, è una mia aggressione. Io ho paura, ecco, che ci sia, chiaro, se te lo dico durante una riunione davanti a 15 persone magari hai anche ragione, ma no, voglio dire, restiamo in un ambito, come dire, un minimo civilizzato. Io ho paura che molte di queste opinioni scientifiche, tra virgolette, e io sono convinto che la psicoanalisi non sia una scienza ma una filosofia, e che sarebbe molto più onesta dichiararsi filosofia che scienza, però queste cose, tra virgolette, scientifiche, sono chiaramente figlie dei nostri tempi. Quindi sono figlie dei nostri problemi caratteriali, culturali, sessuali. E quindi basta, con questo detto, quello che voglio dire è che io relativizzerei tutte le opinioni possibili. Mi piace, stimo la posizione Treccani. La posizione Treccani cosa fa? Riconosce l'utilizzo del termine sessualizzazione come diciamo incitazione a stare in un discorso, in una dimensione erotica, però ne riconosce il fatto che questa dimensione è nostra, cioè ognuno ha la sua, non è una, cioè non è come il diavolo. È una questione concettuale. Cioè di sessualizzare là, come puoi sessualizzare tu un'altra persona? Cosa vuol dire? Cioè vuol dire che dentro la tua testa tu le immagini come ti piace erotizzare le cose, come la vorresti, come ci vorresti fare sesso, o come vorresti che lei ti seducesse, lei la persona e non lei la donna? Cioè è un termine in generale, può essere maschile, femminile. Una cosa che spesso si dice è che essere guardati con desiderio ti trascina in una dimensione che magari tu non avevi intenzione di affrontare in quel contesto, per esempio, no? Spesso si dice che il desiderio dell'altro che ti porta, ti trascina, ti fa sentire sporca. Quante volte abbiamo sentito dire nella letteratura mi sono sentita, mi ha guardato così tanto intensamente che mi sono imbarazzata, mi sono sentita che avevo già peccato. C'è questa idea molto cattolica, ma noi, cioè, pensiamo che il cattolicesimo è una cosa di una o due generazioni, è lunga, cioè noi ce l'abbiamo proprio dentro come cultura, del diavolo. Cioè il diavolo cos'è? Un'entità esterna. Noi cosa facciamo col diavolo, per esempio? Prendiamo la nostra essenza interiore, cioè una cosa che fa parte di io, me, dentro di me, e la immagino e la percepisco come istanza esterna da me, quindi qualcosa che mi può influenzare dall'esterno, magari invocato da un'altra persona, no? Che invoca il diavolo, lo invoca col pensiero, lo invoca con delle strategie, lo invoca presentandosi vestita succinta. Io di solito faccio così quando sono il diavolo, mi presento succinta, no? Oppure non lo so, fai una battutaccia sporca e porti il discorso in sconcerie, e il diavolo, quindi questa esternalizzazione del dentro. Cioè io invece di parlare del mio di desiderio o dell'effetto che ha su di me il desiderio dell'altro, parlo solo dell'effetto che ha su di me il desiderio dell'altro, come se questa cosa potesse veramente essere un'azione che mi plasma, come se non fosse un rimando empatico, come probabilmente invece sarebbe più adeguato descriverlo, ma un'azione subita, proprio come un'influenza negativa, come invece una partita di ping pong o di tennis. Cioè io ti do la palla, tu me la restituisci. Cosa? Dialogo. La partita di tennis è un dialogo, quello. E invece, così come è messa, sembra che io ho la palla, te la tiro e tu non hai la racchetta per rispondere, quindi questa palla ti arriva addosso e tu non, cioè, tu la prendi, ma è un'aggressione in qualche modo. Se l'altro non voleva giocare a palla, gli arriva in fronte ed è un'aggressione, e questo è vero, attenzione, perché a chiunque può capitare di ricevere un avance non desiderata nel momento totalmente sbagliato e sentirsi a disagio. Questo succede. Questo però, il fatto che succeda, non significa che l'altro ci ha invaso e manipolato. A me non succede mai, fatemi più avance. Se vuole le avance. Io voglio le avance. Nei momenti più brui pensabili. Devo fare la nostra comunicazione di servizio. Allora, ci chiedono di vedere le tette. Vi consiglio di andare a vedere uno dei miei ultimi post, dove do un messaggio importantissimo, proprio riferendomi alle dirette con Rosario Gagliardo. Qua non si accontenta nessuno, perché sarebbe gratis. Se volete vedere, ci scrivete in privato, vi mandiamo foto, video, voi pagate, pagare, pagare, perché non siamo qua tipo dammi questo o quest'altro, non siamo in salumeria, e comunque anche se fossimo in salumeria devi pagare il prosciutto, non te lo danno gratis. porche porchette al banco. Si paga tutto, niente gratis. Pure io mezza fettina io ve la faccio vedere. Se volete, si vedono le mie chiappe su Canfor in questo momento, dietro. Pagare anche lì. Io sono troppo buona. Perché sono stata sessualizzata. Sessualizzando tutti, fatemi coprire. Che sono, no, io questa è una confessione che devo fare, perché una volta me l'hanno detto delle femministe, e loro lo sanno meglio di me, e mi hanno detto che io mi sono fatta sessualizzare per diventare famosa e compensare tutti i miei problemi psicologici, e mi sono fatta sessualizzare perché mi trucco come una mignotta e poi faccio vedere le zizze e il culo e ciuccio il cazzo se qualcuno me lo chiede, e non lo faccio per me stessa, lo faccio per compiacere l'altro. Io rinuncio alla mia volontà. Mi sembra del patriarcato. Comunque queste secondo me non sono femministe, sono persone con problemi. Il concetto di sessualizzazione, parliamo di sessualizzazione precoce delle ragazze, dà per scontato che la sessualizzazione poi c'è anche quella non precoce delle ragazze più grandi, perché non è una cosa che noi facciamo innata, quello di sedurre, perché cioè non è che io seduco perché sento che per me è un potere di relazione nel quale mi sembra che sono corretta, etica, do e prendo e faccio qualcosa di buono. No, non è una scelta libera. E così, quindi, quando viene fatto quelle più giovani, quelle proprio tipo di 16 anni, la legge deve intervenire, l'opinione pubblica deve intervenire, perché se tu ti lasci sessualizzare dal sistema a 18, sei responsabile tu. Ma se tu ti lasci sessualizzare dal sistema mediatico, dei media e delle cattive amicizie a 16, per esempio, allora qualcuno deve intervenire a spiegarti che tutto quel rossetto ti fa troia, perché il discorso rimane quello. Rimane tutta una questione sull'apparenza che tu dai di te. Stranamente, quando tu leggi e quando si parla di sessualizzazione, è tutto un discorso che basa su il ruolo della persona all'interno dell'immaginario degli altri. Non è che ti fa un discorso tanto su come se la vive lei. Quello che dice di lei, di come te la vivi tu quando vieni sessualizzato, cosa ti dice? Che tu eri molto insicura. Cioè avevi un sacco di turbe e di crisi, sei un adolescente, figurati. E a quel punto, per omologarti al sistema, stai in un immaginario commerciale che è stato tutto virato su richiami sessuali, perché punta a un mercato maturo sessualmente che transita il suo desiderio sulla merce rappresentata con richiami sessuali. Questa roba non è finta. No, è fascismo, non è falsa. Abbracciare la propria sessualità, soprattutto in età evolutiva, è un bene. E come ognuno l'abbraccia, bisogna vederlo. Poi c'è, però, innegabilmente, io l'ho visto con i miei occhi, un fenomeno, diciamo, che effettivamente è strano da vedere, che è quello appunto di cui accennavo prima, poi non potendo perché Sandra mi ha interrotto, di cui accennavo prima, che è quello, per esempio, di molte ragazzine che hanno degli account Instagram, per esempio, molto sexy, perché imitano le loro idole, che sono le varie Elettra, Lamborghini o non so come si chiamano, quelle lì, di cui si parla su ogni giornale ogni giorno. Cioè ogni giorno c'è la foto incredibilmente hot di quella lì che fa vedere la scollatura vertiginosa, ed è una notizia. È quello che dà fastidio, quella è sessualizzazione. Quindi, poi chiaramente queste ragazze... Però scusa, in questo esempio che ha fatto Bastoni, cioè sono queste ragazze... Ma lo facciamo anche noi, cioè io ho 37 anni quasi e io mi sessualizzo, cioè io quando pubblico le foto in un certo modo è perché mi compiaccio. Secondo me il problema, infatti, qua, cioè c'è un cortocircuito, secondo me, della sessualizzazione. Cioè, se vogliamo, secondo me, quello che più forse è inquietante, però lo trovo anche naturale, cioè ci si ispira, no, ai nostri idoli, noi ci ispiriamo ai nostri idoli e vogliamo imitarli, vogliamo essere come loro, vorremmo essere loro, anzi neanche come loro, vorremmo essere loro, no? E quindi facciamo di tutto per somigliare loro il più possibile. E in adolescenza questo meccanismo probabilmente è ancora più enfatizzato. Perché appunto l'apprendimento e l'evoluzione è sempre, no? per imitazione, per emulazione. Il punto è che forse cioè quello che inquieta è questa cosa di della malizia, della, cioè, dell'uso di determinati codici. Quello, cioè, che inquieta è quando il giovane non capisce quel comportamento nella società è considerato sconveniente. Perché non lo capisce? Perché non gliel'hanno spiegato bene, perché non gliene frega un cazzo, perché ha gli ormoni montati a neve e non gliene frega niente, non lo trova una motivazione sufficiente, però spaventa. No, quello che sto dicendo io è che è singolare come, io adesso forse perché sono una cioè mi sento una donna. E sono stata cresciuta con tutti i parametri, come sappiamo, femminile, bla bla bla, quindi io posso parlare per me, non so i ragazzi come si vivano la propria sessualizzazione, però io che sono stata, che mi sono sessualizzata da molto piccola, cioè io sono una persona seduttiva, nel senso che non è che sono seducente, cioè io sono una persona a cui piace sedurre e lo faccio proprio per, sia perché il mio scopo è il sesso, sia perché il mio scopo è un'altra cosa. Cioè sono, ho questa, anche con le amiche, cioè ho questa attitudine molto in cui cerco di sedurre. Ora, a me ci piace. Quello che però mi domando è, abbiamo, è come se avessimo però un'idea, ed è qui secondo me che scatta tutta quella roba della sessualizzazione, come se avessimo un'idea che la sessualizzazione si manifesta solo in un certo modo. Per la donna sono abbigliamento succinto, trucco magari, seno in vice, tutte quelle parti che fanno arrapare il seno, il sedere, lo cioè più pelle possibile esposta, no? L'ombelico, no? Tutte queste parti qua. Belli. Quindi mi domando, ma è davvero quella solo la, cioè noi ci sessualizziamo solo così? Nel senso, no, non è un po' limitante sessualizzarsi solo in questo modo e considerare sessuali solo quelle cose? Perché secondo me c'è una, c'è un arcobaleno, uno spettro di modi di sessualizzarsi e di sedurre anche che è estremamente più ampio, però qua, il problema si pone solo, c'è la donna scollata, oddio, c'ha 15 anni, andalo, la stanno sessualizzando, la stanno plagiando, cioè perché? Perché? Poi nell'articolo era bellissimo, quando succede questo spesso aumenta anche il consumo di droga e poi alcuni giovani ascoltano il grammofono, strumento di Satana, dai per favore, 2020, ma basta. Non so, però aspetta, tu da uomo bastoni, cioè secondo te, voi che anche avete figli maschi, non so poi se si identificano come maschi o meno, però cioè com'è la perché per le donne ci rompono così tanto i coglioni con questa cosa della sessualità? Allora, perché la donna, la brava donna che timorata di Dio è brava, che poi diventa una brava moglie, deve essere discreta, deve farlo solo col marito, di fargli vedere le tettone. Questa qui è merda travestita da sociologia, psicologia, è sempre, ma fascismo. L'educazione delle donne, questo è patriarcato puro, cioè proprio la donna. Spinto proprio. E noi maschi viviamo comunque anche noi grossi problemi, sia prima, in cui c'era questa cosa della sessualizzazione, come dire, spinta, per cui il maschio doveva essere molto maschio fin da subito, molto macio. Io ho uno dei miei migliori, no, il mio migliore amico che insomma è omosessuale e aveva un padre molto cattolico, americano, militare, che gli diceva: tu devi mangiare i fagioli perché fanno crescere i peli sul petto, tutte quelle robe lì che continuano a i bambini non piangono, i maschietti non piangono, i maschietti devono fare tutto quello che, non tutti i bambini vogliono fare questo. Ci sono bambini più emotivi o bambini che vogliono mettersi la gonnella o giocare con le bambole, e quello già era molto, era un grande problema. Ha sempre poi i messaggi molto confusi, perché tu devi essere un gran maschione, però sei stato anche castrato, non ti dovevi toccare il pisello, non dovevi farlo vedere a nessuno, quando invece quando sei piccolo la cosa che vuoi di più è che qualcuno ti guardi il pisello, che ti dica: ma che bel pisello, è tutto a posto, hai proprio un bel pisello, vai che sei un grande, no? Invece no, mettilo via quel coso lì sporco. Quindi un grande grande confusione. Da una parte dovevi essere molto maschio, dall'altra dovevi essere molto castrato, e questo genera grandissima angoscia, che poi poi sfocia, nel migliore dei casi, nella storica imbranataggine dei maschi nell'affacciarsi alla sessualità e a quello che ne consegue. Perché quello non è imbranataggine, quello è essere frastornati. Un po' per la donna invece può essere invece questo dualismo, che anche lì è una dicotomia: la donna puttana è santa, e c'è un cortocircuito, perché tu dici: ma io non sono né l'una né l'altra, quindi non esisto, cosa sono, chi niente, sono? Non sono niente. Il problema c'è ancora di più per noi maschi, perché in tutta quest'area di MeToo e di diritti e di menate, l'angoscia di tenerselo in tasca il più possibile c'è. Io lavoravo in una multinazionale, la cosa che mi dissero i miei capi da Londra appena vennero su, insomma, che furono capi nuovi, mi dissero: evita assolutamente di restare da solo con una donna in un ufficio dove non c'è nessun altro. Questa è una cosa, è da clima di guerra, di terrorismo, è una cosa spiacevole. Infatti ed è assurda sta cosa, secondo me, perché, cioè, se ci pensi, è una derivazione appunto sempre di questioni patriarcali alla fine. E cosa dicono, invece di evitare di molestare le persone, ti dicono: fai il corso antiviolenza. Ma perché devo andare a fare il corso di, non antiviolenza, di corso di autodifesa? Difesa personale. Persona non menare, perché mi devo andare io a fare il corso di autodifesa? E mi sembra la stessa cosa. Cioè, invece di dire: raga, possiamo essere persone civili anche se si trovano un uomo o una donna nella stessa stanza, e comportarsi civilmente, no, c'è questa cosa. Perché? Perché siccome l'uomo etero storicamente ha agito dei comportamenti abusanti, allora sai che c'è? Gli metto un testimone, quindi dovete essere almeno in tre, possibilmente due donne e un uomo. Ma perché? Ma perché ogni uomo è un aggressore? Perché tutti gli uomini allora diventano stupratori. Siamo ancora alla paura del pene: ogni pene è una minaccia, quella roba lì. Ed è nel grande calderone della sessualizzazione, purtroppo, che, come dicevi giustamente tu, ha delle critiche molto positive per quello che è una coscienza della situazione, perché la situazione, per esempio, del marketing che fa leva sugli istinti sessuali repressi è una cosa che dovrebbe offendere qualunque popolazione civile. Cioè, l'idea che mi venga propinato un'automobile dicendomi che mi farà essere finalmente super potente, con tutte le allusioni, le curve, le donne che ti dicono sì, cioè fare leva su queste pulsioni sessuali per vendere una cazzata è imbarazzante, come molte altre cose che hanno a che fare con il nostro momento storico tutto basato sulla merce e il capitale. Ma la soluzione non è gridare alla sessualizzazione e sottintendere una sessualizzazione in questi termini, perché non ha basi scientifiche, non ha veramente degli appigli filosofici, ed è illogica, assomiglia tanto alla paura del demonio. E quello a cui io la riassumerei, quello a cui io la faccio ricondurre, è semplicemente una grande angoscia nei confronti del desiderio dell'altro, perché non c'è nessun tipo di riconoscimento del proprio desiderio. Mi è venuto in mente una cosa adesso, rispetto anche a quello che diceva Bruno, la storia, mi raccomando, non trovatevi da soli nella stanza con una donna, sempre per la sessualizzazione si dà per scontato poi che l'uomo e la donna debbano provare un'attrazione sessuale, o che l'uno debba sessualizzare l'altro, potenzialmente più l'uomo che sessualizza la donna. Cioè, se si parte da questo assunto, è ovvio che ci sarà sempre sfiducia, e poi anche quando capiteranno delle cose in un ambito extra lavorativo, quindi un ambito dove sei più sciallato, più rilassato, eccetera, comunque sei sempre sull'attenti di: mi possono sessualizzare, ma io sessualizzo, minchia, cioè è terribile, perché è proprio una cultura sessuofobica. Cioè, è una cultura sessuofobica. Parliamo da una cultura sessuofobica che quindi tira fuori dal cilindro queste cose, la sessualizzazione. Ma di che cazzo stiamo parlando? Aspetta, che inside porn, usare la sessualità per vendere, ma poi averne paura, il paradosso contemporaneo. Esatto. alcuni ovunque, però poi quando dici sai che c'è, ma allora scopo, no. No, ma parliamone, cerchiamo di capire, no, non fartelo, perché poi la molestia è qui e là, sei un porco, sei una porca, sei indegno, ma di che cazzo stiamo a parlare? Cioè, no. Ma è la... ti fanno desiderare, ma ti fanno frustrare di desiderare. E allora che cazzo c'è? Ma no, funziona proprio così. Se non è frustrato il desiderio sessuale, non funziona per riuscire, non riesci a venderti un prodotto che non c'entra un cazzo col tuo appagamento, un desiderio finalizzato. Solo l'inganno può depistare il senso di un anelito così profondo come quello dell'Eros verso un'automobile, per esempio. Soltanto un inganno. Infatti si parla sempre di seduzione come qualcosa di ingannevole, ed è quel tipo di seduzione, esatto, ingannevole che viene utilizzata. Ma non è la seduzione non è sinonimo di inganno. In questo caso sì. Il concetto di sessualizzazione pare così un modo per stigmatizzare il sesso. Allora, tornando invece a, diciamo, i caratteri interessanti della sessualizzazione, sono, come giustamente dicevamo prima, lo stereotipo. Però il problema dell'immaginario stereotipo, ragazzi, cioè al di là della sessualizzazione, cioè è un problema in generale quando noi pensiamo che la pubblicità ci debba fornire dei modelli a cui noi dobbiamo adeguarci. L'idea che la pubblicità e la televisione in generale, i media vengano a farci da esempio nella nostra vita, è qualcosa che noi dovremmo scardinare, non cercare di convincere la pubblicità e l'intrattenimento a fare dei prodotti che ci assomigliano di più. Ecco, io questa cosa non l'ho mai capita. Io mi ricordo negli anni 90 che facevo il mio attivismo da ragazzina e si criticava tanto questo discorso della pubblicità che ci fornisce dei modelli, ma per alcuni di noi, o almeno per me, la critica era basta farci fornire i modelli dalla pubblicità. E invece quello che ho visto in questi 20 anni è stato che quello che è stato fatto è chiedere alla pubblicità di fornirci nuovi modelli, più alla moda, più simile alla nostra idea di noi stessi. A me questa cosa mi sembra una cosa veramente schifosa e vergognosa, io la vivo come una sconfitta. Quindi convogliare questo discorso poi di nuovo in un altro, che è la sessualizzazione, quindi la colpevolizzazione dell'arrapamento, della seduttività, del voler far parte di un discorso di Eros anche come potere. Ecco, hai 12 anni, hai 13 anni, stai facendo carriera, ok? 12-13 anni, okay, stai facendo carriera nel cinema, stai facendo una parte, ti devono mettere il rossetto. Allora, aspetta, c'è una scena di un film bellissimo, ma non mi ricordo il titolo, non è importante. Dove c'è una bambina che viene raccontata con dei caratteri di femminilità, ok? Una roba del genere per un periodo del nostro tempo è stata legittima, prima era vietata, ora sembra di nuovo immorale, è una questione di usi e costumi. La narrazione dovrebbe essere libera, moralizzare il fatto che si racconta che magari questo soggetto femminile giovane utilizza la seduttività, oppure non ne ha idea ma si lascia mettere il rossetto e magari nella totale infanzia viene però percepito sessualmente da un altro che non gli mette le mani addosso, lo sta solo pensando e raccontando in quei termini. Tutto ciò messo nel calderone sessualizzazione vuol dire colpevolizzare tutto questo, cioè dire che tutto questo è frutto di una perversione, perché i bambini non hanno sessualità, la pedofilia, ricordiamoci la pedofilia, il desiderio è sempre, può essere brutalizzante, oggettificante. Io ho trovato in tutti questi articoli la parola donna, allora aspetta, donne oggetti sessuali di poco valore e conto, mancanza di autostima, è tutto un continuo di spiegare come essere desiderati e desiderare ti porta all'umiliazione, all'essere usato, a farti usare. Al punto che qua però ti chiedono se il film a cui ti riferisci sia Leon. Ah sì, non lo so se Leon, però anche in Leon c'è una bambina. Non si dice la figura di lei che... Voglio dire una cosa, una piccola riflessione. Vai, sì, sì, esatto. Scusate, mi voglio oggettificare. Quanto ci manca per la fine? Dove si vede? Beh, stiamo poco, salutando. Poco. Io, sì, Giordi, Io volevo dire, volevo fare una può essere Jodie Foster in Taxi Driver, può darsi. Io ho pensato a Taxi Driver. Voglio fare una citazione e una riflessione molto più terra terra e pop. Io vi consiglio di rivedere un film molto becero, in realtà un film molto semplice, degli anni 80 mi pare, verso la fine, che si chiama Rimini Rimini. Io non vi consiglio di vedere Rimini Rimini per la colonna sonora capolavoro dei Righeira, ma non è solo per quello che lo dovete guardare. Lo dovete guardare perché tra le varie sottotrame ce n'è una che ha come protagonista Eleonora Giorgi, è un ragazzino di 12 anni, 13 anni, e c'è una storia tra di loro, una storia che viene raccontata con una serenità e con una, insomma, come se fosse una cosa che si può raccontare e che adesso Rimini Rimini non sarebbe mai prodotto. Quindi in 20 anni sono così cambiate la cultura e l'atteggiamento sociale nei confronti di certi argomenti, sono così tanto cambiati che appunto tutto quello che noi troviamo, che possiamo leggere, che possiamo apprezzare di questa gente angosciata va preso relativamente, va preso con le pinze. Veramente. Ma, allora, sì, sicuramente sono cose figlie dei nostri tempi, per certi versi in alcuni casi dico anche bene, cioè che ci siano delle cose, però effettivamente bisogna anche, io sono assolutamente d'accordo per relativizzare tutto quanto, sì. Sì, allora, io ripeto, io credo che ci sia un allarme interessante, quello della strumentalizzazione dell'eros frustrato a scopo di sponsorizzazione di prodotti di merda e depistamento dell'intelligenza umana. Sicuramente ci sono un sacco di stereotipi femminili penosi, vecchi e vetusti che bisognerebbe riuscire a emancipare, da cui dovremmo emanciparci, cioè io per prima sono una donna di 42 anni e ancora devo capire in che modo trovare la mia bellezza, la mia sensualità, perché gli stereotipi classici della mia età incominciano a assomigliarci, probabilmente più andrà avanti l'età meno ci saranno persone, diciamo, nella cultura comune a cui io posso ispirarmi, perché la femminilità è narrata per i giovani, no? Le vecchiette facciamo la maglia, facciamo le pretine, quindi sicuro su questo io sono d'accordo, cioè io su questo sono d'accordissimo che bisogna lavorarci su e scardinare tutto, però la sessualizzazione è un concetto sbagliato, è molto, molto colpevolizzante e parte dall'idea che noi che non c'è un'energia sessuale in noi. Perché è proprio non si capisce che cosa intendano le persone, cioè secondo me innanzitutto dobbiamo chiarire che cazzo vuol dire sessualizzare le persone e partendo da questa base capire se sia una cosa sensata oppure no quello che viene detta, perché a me, cioè io pensare che qualcuno mi sessualizzi, cioè non, come dicevi tu, non è un'azione che per me può essere agita verso qualcuno, la possiamo agire solo verso noi stessi, certo. Dal mio punto di vista, per questo mi trovo in difficoltà, cioè una persona mi può vedere ed essere e provare attrazione per me anche se io non lo ricambio, il desiderio. Che mi sta cioè cosa vuol dire mi sta sessualizzando? Io sono già un essere sessuale, che cazzo significa? Semplicemente che mi desidera, appunto, e mi desidera anche sessualmente, però non lo so, mi sembrano delle cose cioè che facciamo continuamente, voglio dire, che capitano continuamente e il problema non si pone finché appunto c'è un rispetto anche dell'eventuale rifiuto, eccetera. Se invece io cazzo sono attratto o attratta da te, magari te lo esterno anche il mio desiderio, tu mi dici guarda no grazie e io insisto, lì un altro paio di maniche, ma non è un problema della sessualizzazione, è un problema che non ci piacciamo reciprocamente, finisce là. Bene, allora salutiamo Rosario Gagliardo e Claudia Scala, sessualizzazione a spanne, sensazioni e impressioni, ci vediamo domenica prossima alle 22 per qualunque sozzata, noi puttane, volevo dire noi sì. Insomma, contattateci in privato Bussi per tutti i gusti, yes, sono molti gusti, vado bene a tutti, pure a quelli brutti, pure a quelli brutti, sono una vera Bussi, sono una vera Bussi, tu sei un vero man, ma non il mio fran, ti manca il toy man, non sono toy ben mulcher, sono